a voglia, perché assorbe molto il calore. Tu figurati, per salire sul tetto, no? C'è il solarium, cioè sarebbe un terrazzo in pratica, oltre al circolo con le tegole c'è anche quello in piano che può servire per mettere delle sdraio, ombrellone, eccetera eccetera. E quando passi rasente al muro delle scale la sera e anche la notte ti vedi questo caldo, sembra che ci sia una stufa accesa, perché è la rifrazione che è quello che accumula la mattina, poi ti viene dato la notte, e quindi c'è questo caldo, questa cosa che esce micidiale. Me lo posso immaginare. Voi accidenti, siamo invasi dai ragni, dappertutto ragni, guarda, anche sulle telecamere ogni giorno tocca pulire, ma non sai quanti ragni ci sono in giro. Io me lo posso immaginare. Ieri ero, anzi no, quanti ieri ero, ero al coso, no? A Vare Urbara. E ho visto dei cinghiali, quattro cinghiali, no, cinghiali, mufloni volevo dire, ma veramente belli, guarda, è una cosa micidiale. Dopo ho pubblicato un buco, e a momenti cerco fuori la macchina, sfangala, e a volte le strade sono quello che sono. Infatti, ancora esistono i mufloni. Sì, e poi in quell'ambiente, si passa da San Leonardo, non so se lo sai dove fanno l'acqua, siete fluente, si va di lì e si prende per Montiferru e sali su a Vare Urbara, vedete le antenne grandi, che poi ci sono abbastanza accessibili perché c'è solo un muretto, quindi vedi tutto il traliccio della RAI e tutte quelle cose lì, no? E lì c'è anche il ripetitore di UGL digitale, cioè ci sono anche altri ripetitori, c'è anche Link Nazionale, ospitato sicuramente in qualche radio libera forse. C'è uno spettacolo veramente notevole, sia a destra sia a sinistra. Peccato che in lontananza ci fosse foschia a causa del calore, però insomma un bel vedere. Io sono salito sull'Imbara, sono salito, da lì col portatile sentivi il Roma. Beh sì, è normale, d'altronde l'Imbara è proprio collegato lì con non so se sia Monte Mario o quale sia, in cui ricevono i segnali, capito? Perché l'Imbara è in collegamento con Lazio. Io salivo lì con Mario, e praticamente ho visto di tutto, anche io. Ma anche adesso ce n'è, però non come prima, molte cose oramai sono cambiate, anche le tecnologie, quindi sono più piccole, c'è bisogno di meno spazi, eccetera eccetera. E io me ne sono fatti tutti, mi sono fatto, quindi l'anno scorso ho fatto l'Imbara, poi Ortobene, quest'anno ho fatto Vare Urbara, mi manca Monte SPD, e poi vediamo un po' verso il centro di ascolto, cioè di trasmissione della Maddalena, dire che ci sono delle antenne enormi e quelle sono per il Navtex, non so se lo conosci. Della Marina. Sì, della Marina Militare, c'è una stazione lì nell'isola, insomma, mi viene in quell'isola che è quasi uno scoglio, che sono altissime, e poi ci sono quelle dove c'è il forte lì della Maddalena la località non mi viene, c'è anche il nome, vabbè, c'è sempre la sigla. Quelle sono antenne che lavorano in onda lunga. Lì le avrà viste Franco, che ha fatto il militare lì. Sì, le antenne sicuramente, e poi non so l'altro, no, perché anche per i militari quando si era di leva molte cose erano vietate, capito? Proprio perché eri di leva e quindi no, non si dovevano vedere, solo quelli effettivi le potevano, c'era l'accesso. Nell'altra stazione radio, ad esempio, quando ero a Napoli, c'era il divieto d'accesso perché c'erano i codici. Chi andava sui punti radio proprio era addetto alle trasmissioni, questo maresciallo che ci bimmi, maresciallo aiutante, ed era carabinieri, ed era proprio, andava sui punti, queste cose così, perché lui era addetto alle trasmissioni. Peccato che si senta basso, gliel'ho detto, mettiti l'antenna sul tetto, lui è... però il rischio dove c'è per non bisticciare con quelli del palazzo. Sì, scusa, mi sono un attimino, ero qua vicino, che mi stavo prendendo una pomata, perché giustamente come stavo stendendo mi appunto qualcosa, ma vedi che appena esci fuori a quest'ora ti fa una beffa. Tu mi sono grattato e ho fatto il patatrack. Sì, che non mi viene il nome, è quello che in via Principessa Yolanda, che era, faceva il riparatore dei CC, infatti ogni tanto ti chiedo qualcosa. Io mi ricordo noi siamo d'altronde, per la nostra giovinezza siamo dell'epoca delle V30, quelle erano in 30 MHz, te le ricordi, sulle Giuliette, con quell'antennone grosso, doveva essere una Sigma se non ricordo, anzi no, era una Caletti, sui 30 MHz, 30-40 MHz. Sì, già me le ricordo quelle lì, quelle antenne lunghe e lunghe col mallone. Io infatti l'avevo usate, l'avevo toccate quando venivano da noi a fare il rifornimento per l'autocolonna. C'era il ripetuto normale, che il ripetuto credo che era in rosso, poi il normale era in verde, il diretto, e c'erano due servitori di canali, capito? E poi c'era il deviatore, questo nelle moto ma anche nelle macchine. Ed erano già separate la testa del trasmettitore dall'apparato già all'epoca, però erano su una frequenza veramente disgraziata. Mi diceva infatti il mio collega che era la questura di Milano che non imbattevano un tubo con le radio veramente, perché a quella frequenza capirai. Infatti quello di via Principessa Yolanda lavorava lì, me l'ha detto, era maresciallo aiutante quello. Sì. Beh, ma allora avevamo tante frequenze anche all'epoca, mi ricordo che avevamo la 174, che era la radio di stazione. Se tu guardi sui B ce ne sono ancora alcuni modelli che erano della Ducati, se non ricordo male. Poi lavoravano dopo la 30 MHz, che andavano fino ai 40, arrivavano, perché giustamente era necessario lo shift per poter avere una certa distanza tra trasmissione e ricezione per i ponti radio, e poi sono passati su quella che loro chiamano la 400, ed era Cogliotte, uffici torinesi elettroniche, se non ricordo male la sigla. C'erano Lotte 400, ma c'era anche la polizia, lo stesso, la polizia c'era la Celeste, se ben ti ricordi, e il carabinieri era blu, sì, no, quello del carabinieri era nero, era più piccolo ovviamente, più moderno di quelle che c'erano prima, quei barrasoni enormi che operavano quelli della polizia sui 70 MHz, quindi erano giganteschi. Lo so, gamma 400 erano quelli dei carabini con la cornetta. Sì, da sempre, da sempre l'arma, ha avuto da sempre la cornetta. inserito, in modo da poter ascoltare un altro parlante, e questo anche nelle moto, ma le moto c'è proprio il ricordo della tromba. E quella faceva l'altoparlante ma anche da microfono, perché quando eri in movimento te avvicinavi di lì e ci potevi parlare dentro, o se no usavi anche lì il microtelefono, ma è molto, era un pochettino difficile. Adesso invece c'hanno le come si chiamano, non mi viene il nome, sono le Motorola, comunque c'hanno le Motorola e le Selex, come era, le Selex sono micidiali, c'hanno tutto, operano col tetra, quindi i caschi anche dei motociclisti c'hanno già il coso Bluetooth, e quindi non deve staccare fili, insomma c'hanno tante cose veramente. Lì adesso si sono modernizzati, infatti non si sente più nulla. No, non si sente più nulla per un motivo molto semplice, che non sono lì, sono tutto il sistema tetra per l'Italia e parte dell'Europa è standardizzato, capito? Quindi sono 390 e spiccioli, 410, ma da noi qua li senti soprattutto sulla 395, 300, e sono tutti ovviamente, non senti un tubo, senti tante celle, tipo quelle telefoniche che gracchiano e basta, non puoi sentire niente, perché tutto fortemente criptato, poi è una tecnologia diversa, anche se ti compri una radio non riceveresti niente, perché sono tutti apparati ad accesso condizionato, cosiddetto, capito? Quindi ti presenti alla stazione principale, al master, lui ti riconosce e ti dà l'accesso, tutto lì, sa dove sei, chi sei, a che ora hai acceso, a che ora hai spento, tutto lì. Infatti adesso balle sono che li puoi sentire. Io mi divertivo ad ascoltare i vigili urbani quando chiacchieravano con i vigili urbani. Ma manco a loro senti più. Tutto digitale. Non senti neanche a loro per un motivo molto semplice, che il tetra è un sistema multiutenza, quindi sulle stesse frequenze, cioè non puoi dire la frequenza tetra e dei carabinieri, no? È tutta una rete, no? Identica, è suddivisa in gruppi di utenze, quindi c'è un'utenza dell'arma, c'è l'utenza della polizia, c'è l'utenza dei vigili, e dà l'impressione che siano tutte convogliate su particolari vie. In realtà non è altro che un ponte, è un ponte in cui transitano tante macchine, e queste macchine possono andare in un senso o nell'altro, in una corsia o nell'altra, quindi non c'è più il concetto di frequenza, c'è un bocchettone che manda radiofrequenza su vari punti, e poi i servizi che ci sono dentro sono gestiti da un unico centro, capito, che smista uno qua, una là, una su, dando l'impressione che si sia tutti sulla propria frequenza. In realtà le frequenze possono tranquillamente variare, perché è a seconda della modalità, è un sistema trunking anche quello, quindi è un sistema molto utenza che può sopportare tante comunicazioni. Adesso già si sentono bene, già lì prende bene, no? E come era prima, adesso in qualsiasi punto sei, con quelle lì dovresti trasmettere benissimo, non bene. Ciao Brecchi da Alghero, buonasera. Ciao Claudio, e noi siamo tutti squarciati per i soliti motivi di propagazione. Ciao Claudio, e anche io ho lo squelcio qua, sembriamo FM. Noi stavamo parlando, lei calpestato. Chi è Alghero, buonasera. Sei Mirko? Ciao Mirko, io sono Claudio Sfavero, però Sassari forse non ti ascolta. No, stai andando, Santiago 7, Radio 5 arrivi, abbastanza bene qua, 2 chilometri da Sassari, dalla campagna. Vabbè, io ti ascolto, poi non so gli altri se ti sento, ok? Va bene, ti saluto Mirko, che ero di passaggio, sono entrato, perché ho sentito il tuo break, ripasso il cambio a Gianfranco e rimango in ascolto, avanti Gianfranco. Sì, io lo sento però S1, quindi c'è qualcante Nino, è una zona sorvolevole all'Alghero, non lo so, ma è proprio ai minimi termini a livello di QRM, quasi. Sento che parla, però non sento altro, infatti presumibilmente a questi segnali è difficile che senta anche a noi. Avanti Natale. Sì, io nella falta adesso lo squelch, quindi non l'ho potuto sentire. Quindi lo sentite basso? Va bene, ok Mirko, ti sente basso Sassari? Ok? Io vi lascio e ci sentiamo semmai più tardi se ci siete. Da parte mia, QRX, ok? Vai Gianfra, tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto e niente in ordine, come sempre. Ehi vabbè, l'importante sia tutto a posto. No, io tutto a posto qua, sì? Ah, sì, sì, tu sì, sta andando bene. Per quanto molto forte sia la radio, non è come ti dicevo, capito? È la tua radio, la stessa che avevi su, però non c'ha quell'effetto strano che ti ho detto di barattolo, di tambullana, ecco. Quello è sparito completamente. Quindi evidentemente c'era a tutti gli effetti. Sì, sì, c'era quella regolazione che era da fare, no? Beh, la radio è sempre questa, quindi è quello che mi dava un po' fastidio, perché io non toccando niente mi sono trovato con questa radio barattolo che poco mi piace. La radio Kenwood è questa da sempre, quindi questa deve essere la mia riconoscibile. Beh ragazzi, vi lascio, ci sentiamo dopo, che è andato appena via il carissimo amico Franco, che erano qua a pranzo con la moglie, e quindi adesso sistemo un po' di cosette e poi ci sentiamo. Va bene, ciao ragazzi. Ciao. E avanti Natale. Ciao Fedibella. Ciao Natalino Pantaccini Corti, Berrettino. Quindi stavamo dicendo, oggi non c'è quasi QRM, no Stato Natale? Sì, io c'avevo lo squelch da ieri, anzi davanti ieri mi sembra. È per quello che magari non ho sentito quello Alghero, perché l'ho squelciato. Stavamo dicendo che adesso si sentono bene quelli lì, nel senso o arrivi o non arrivi per nulla, se arrivi arrivi bene con quella modalità che hanno adesso. Diciamo che dunque a sentire ovviamente si sentono bene, molto chiara, sentono solo la voce, non pensare che si sentano rumori o trick e track vari come qua, si sente la voce molto, meglio una telefonata perché non c'è neanche il sottofondo, perché sono tutti microfoni a cancellazione del rumore, perché li usano in macchina, li usano in elicottero e quindi deve essere così. Il punto dolente è che non hanno una grossa portata, contrariamente a quello che puoi immaginare. Tanto è vero che la protezione civile non l'ha scelto il sistema, ha scelto il DMR, perché ha le stesse capacità dal punto di vista anche del full duplex, perché sono tutti apparati che possono trasmettere tipo telefono, quindi alzi il microtelefono, la radio, puoi fare telefonate, anche se oramai penso che non sia una cosa così importante, però mettiamo che uno dall'ufficio voglia contattare una radio mobile, alza il telefono, fa un numero e alla radio squilla il telefono, praticamente la suoneria, e dalla radio rispondi. Però ripeto, il Tesla non c'ha una grande portata, la portata l'è data dal fatto che se tu guardi Sassari ci sono delle antenne che sembrano quasi radioamatoriali, e quello è il tetra. Su ogni cella telefonica quasi c'è un'antennina tetra, e solo così il tetra si può gestire, perché avendo 4 slot a differenza dell'IMR che ne ha 2, la banda è molto ampia, infatti loro utilizzano 25 kHz e non i 12 come quelli del DMR, e quindi sono praticamente una radio trasmette sulla stessa frequenza con 4 canali, che è anche il concetto di canali è virtuale comunque. Capito? Quindi imbattono molto di meno del DMR in ogni caso. Il DMR è infatti utilizzato anche dai vigili del fuoco, proprio per queste cose, perché escono fuori dalla città, capito, Natali, in zone impervie, e l'UHF è molto cattivo sotto quel profilo. Se c'è un ostacolo, può essere anche in vista ottica, ma se c'è un ostacolo davanti si ammutolisce, e quindi così è una limitazione. E beh, i vigili del fuoco hanno bisogno di poter trasmettere perché escono fuori, capito? Poi fanno parte della protezione civile anche, quindi penso che sia per quello che non hanno il tetto. Sì, un'altra cosa è che praticamente il tetra è limitato all'UHF, in VHF inizia già a essere troppo poco per lui a causa anche di questi problemi di risentono molto degli effetti eco, di varie problematiche relative a quello che può succedere in VHF, quindi è inimmaginabile usarlo salvo nuove implementazioni nel VHF basso ad esempio, quindi in gamma 60 MHz, 50, lo vedo molto in salita, mentre invece il DMR ci sono apparati che possono tranquillamente trasmettere sui 60, sicuramente anche sui 50, perché il numero di slot impegnato è solo 2, quindi la larghezza di banda comunque è quella classica dei 12 kHz e non dei 25. Noi attualmente ad esempio in FM amatoriale siamo sui 25, mentre invece quando si opera in DMR siamo sui 12, suddivisi in 2, perché poi bisogna capire anche il concetto del digitale, capito? Non basta, non è sufficiente dire queste cose, devi pensare che sullo spazio che stiamo occupando noi adesso mentre parliamo qua, nel DMR può parlare un altro sopra di noi senza darci alcun fastidio, è un concetto un po' difficile da capire, uno può dire ma come mai non vi sovramodulate tipo portante? Perché sono apparati sincronizzati, quando tu prendi il PTT sei sincronizzato e quindi sullo stesso canale, cioè sulla metà di quel canale, viene tagliato in due come se fosse una torta, un'altra la mangi tu e una me la mangio io, capito? E poi ci abbiamo una bella indigestione. Io capito. Poi hanno codici diversi per poter entrare, quindi se tu mandi il codice sbagliato non entri. Sì, quello si chiama ID radio, l'ID radio è un ID numerico, non è un nominativo infatti, quindi attenzione, è un numero che ti viene assegnato diciamo dalla centrale operativa o tramite impostazione dell'apparato, è quello il tuo, quindi se Natalino appena e accende la radio, immediatamente la radio andrebbe in trasmissione con quelle impostazioni e direbbe guarda che Natalino ha acceso, oggi come siamo come cifratura ad esempio, come canale, e questo capita dove c'è un canale cosiddetto di controllo, quindi su una frequenza fissa d'ascolto, dopodiché ti incanala dove devi andare, un po' quello che fanno i cellulari in parole povere, capito? e loro sanno dove sei, la posizione e tante altre cosette, capito? Figurati che c'è anche tutta la radio di quel tipo, c'hanno i portatili, c'hanno la funzione uomo a terra, cioè se tu ti corichi perché ti stai addormentando, la radio dopo, credo, a seconda delle impostazioni, un minuto, due minuti, o come impostata, lancia l'allarme che ha tutte le radio, quindi è un segnale prioritario, che dice che c'è un uomo a terra, che poi si è svenuto, che le abbiamo sparato, eccetera. Lo possono accertare tramite l'azionamento stesso della radio, che avviene con comando, quindi tu puoi ascoltare la radio anche se quella è a terra, come se tipo un microspia, per intenderci. Ho capito. Rimane in trasmissione praticamente e loro ricevono tutto. Tutto, anche la posizione GPS, e quindi sulla carta che c'è lì nella centrale operativa si vedono, si accende e così via. Poi se è anche a bordo, infatti ogni tanto mi arrivano i dépliant della Motorola, della Etera, c'hanno anche la body cam. La body cam spesso è collegata via network per mandare immagini, quindi se c'hanno anche quella lì vedono lo stato dell'azione, ecco, cosa c'è in tutto il circondario, come sta avvenendo una determinata azione. E sono quelle microcamere che si indossano, quelle che vedi in molti telefilm americani adesso. Io ho capito. E vedono cosa succede, diciamo così. Sì, tutto quanto. Infatti durante una determinata manifestazione, visto che anche i vigili a volte usano le radio particolari che danno quelle possibilità, non so se sia un'intera, ma sembrano dei cellulari quasi, no? Con la differenza che hanno un'antennina, ecco. E quindi operano in tetra e in più operano anche via network. Ognuna di quelle radio ha la possibilità di dual mode, di ripetere, quindi se c'è qualcuno che non riceve, la stessa radio ti può permettere di ricevere tramite un'altra radio, che sia veicolare, che sia comunque che c'è segnale. Sì, la funzione ripetitoria. Sì, che costa un pochino, penso alla licenza per le mie radio, per una radio, ne ho due, una VHF e una UHF, costa la bellezza di 150 euro l'una, quella funzione lì, la devi richiedere appositamente, perché funziona in base alla matricola della radio, quindi non la posso neanche clonare, la massa è in varia. È fatta tutta. Di lì il prezzo è alto e sono apparati formidabili, di prezzo altissimo, però cavolo, c'è un ripetitore vero e proprio. Io l'ho sperimentato per tanti anni e devo dire che è assolutamente micidiale. Non parliamo delle radio combinate con i sistemi network, di praticamente lo stavo usando anche quando ero sulla Abade Urbara, ed è notevole, non ce ne sono le nome, capito? Alla faccia. Sì, insomma, sono tante cose, la tecnologia che a molti non piace, tra virgolette, anche radioamatori non ha buoni VD, ma per un motivo molto semplice, che non la capiscono, perché sono stati dall'inizio prevenuti, è difficile, questo e quell'altro, e poi il solito errore di librei, praticamente, che sono litigati, quindi quello ha messo il ripetitore suo, l'altro non lo voleva, insomma tanti di quei casini che non sono compatibili, fanno bene, possono andare bene con un analogico in cui uno fa quello che vuole, ma in digitale c'è tutto un ordine di cose, è tutto, come si dice, programmato, tutto controllato, tutto accessibile, quindi una volta che tiro fuori da quell'ordine non senti un tubo. Infatti varie recensioni, anzi ti dico la Maria Globe, senza stare lì a girare, è stata costretta a mettere: attenzione, queste radio compratele solo se avete nozioni precise sul DMR o su altri sistemi digitali, perché vanno programmate, e se non sono programmate bene non funzionano. Evidentemente hanno avuto tanti clienti che li hanno rimandati indietro dicendo non funziona, e basta, mentre invece la radio era programmata, la membro di Suiugio, tutto lì. Sì, infatti, bisogna essere addentro a queste cose. Ma quando mai non ce la possiamo fare una rete così, Gianfranco? Un canale per non avere rompimento di scatole di chi che sia. Ma innanzitutto con radio amatoriale. Mi senti, te lo faccio sentire, guarda, è digitale. Ovviamente PTG Italia, Rete TDMR, Rocco Verdura, Tito Vincenzo, se è un po' di rappresentante di quelle cose, lo cliccavo. Capito, sentite. E c'hanno pure la selettiva. Francesco, impegniamo anche SWO, il ponte l'altro di Bari, però sicuramente arriverò più grosso. E allora Francesco, dimmi, stai transitando su OCT interrogativo? Visto, queste sono stazioni che si trovano in continente, sono collegati tramite la rete, dovrebbe essere DMR Italia, se non ricordo male, e stanno passando sul ripetitore dell'Imbara. Tipo link nazionale. Sì, a tutti gli effetti è link nazionale, che abbiamo uno all'Imbara, l'altro a Bad Urbara, però non l'ho potuto sentire. Un SPV, per darti un'idea, in portatile, per chi fa esperimenti con li faccio io, che sono sempre la radio appresso, c'è la, se tu vai, sicuramente ci sei salita nella, sicuramente ci sei salito nella parte posteriore di Sennori, dove c'è la chiesa, non so se sia di San Giovanni, ecco, di lì c'è il piazzale, non se ti metti lì con queste radio, vai tranquillo sulla Liguria, cioè premi la portante con col gommino, e io entro tranquillamente sui ripetitori della Liguria, posso parlare con tutta Italia. Oggi forse perché domenica c'è qualcuno, e quindi, ma hai visto che chiarezza che c'ha? Poi c'è questo bip che ti assorda, però vabbè. Io già l'ho sentito. Perché guarda, il volume è quasi a uno, Se aumenti il volume, queste sono radio che te ne buttano le finestre, proprio perché sono usate in esterno, in veicolare, e quindi si devono sentire. Ah, ma quella è fissa, non è portatile. No, questa qua è fissa perché sono in stazione, cioè fissa, è veicolare in realtà, perché di fisse non ce ne sono. Nel professionale le fisse hanno un case in cui si mettono dentro, il case contiene un altoparlante grande, contiene l'alimentatore, però la radio è sempre un veicolare collegato in quel modo, ecco. Capito, perché la radio base non esiste in quel campo lì. Poi c'è il coso, sì, portatili, ce l'ho, il portatile mi funziona fuori, se tu vai fuori e ricevi l'imbara, che ne so, S1, S2, S3, quello che è, la chiarezza non cambia, è sempre la stessa, la rete è perfetta, QRM non esiste. Sì, già me l'hanno detto, è che non, che è un macello, perché se non ti riconosce la radio non senti a nessuno. Deve avere il nominativo e l'indicativo della radio. No, attenzione. Allora, siccome ti ho detto che c'è una marea di confusione sull'argomento, perché nessuno si è preso la briga di spiegare le cose bene, allora, in questo caso, nel caso caso di Blame Master, eccetera, eccetera. È vero che la rete ti deve riconoscere, ma ti deve riconoscere per poter trasmettere, non per poter ricevere. La ricezione è libera, quindi la tua radio quando la accendi e quando soprattutto non premi il microfono, quando non premi il microfono non trasmette niente. Quelle lì sono impostazioni che si danno sul professionale, perché è necessario sapere chi c'è o chi non c'è in radio. Tutto lì, capito? Ma io ti posso, guarda, allo stato attuale, tecnicamente, ti posso far tranquillamente ricevere da subito queste stazioni di MR con una semplice radio analogica. Certo devi usare il computer, quello è ovvio, però le ricevi tranquillamente, ti puoi ascoltare. Questo ci vuole l'antenna, io non so se dalla tua posizione riesci ad arrivare all'imbara, però se ci arrivi non hai problemi, capito? Anche se devo dire che per l'ascolto una radio DMR costa oramai talmente poco che non ti conviene prenderti un portatilino. Però voglio, ripeto, programmato, il problema è solo di programmazione. È lì che non ci siamo. E chi ne ha mai programmato di quelle? Infatti, può essere un problema, ma può essere anche un vantaggio, perché non devi avere il tipo che viene in radio e ti dice mi metti la frequenza 2700 e qualcosa, metti la frequenza 234, metti la no, quello ti dice ascolta, ti mando via mail anche un file, un piccolo file. Il file lo prendi, ti arriva già nel computer, lo scompatti magari e glielo mandi alla radio, tanto la radio si collega in USB. La radio se lo prende ed è già programmato, basta, tutto finito. A figurati. Certo che sì, Natale. Io a Porto Torres in bara, ad esempio, quando sono in bici, lo sento col gommino. Il problema è quello, oggi è domenica probabilmente, c'è gente, sta andando anche molto bene. Segnale, io segnali purtroppo di lì non ne posso dare, sono in termini di forse di B, me lo dà premendo dei tasti in successione. Però comunque sta arrivando, neanche lo vedo, guarda. Boh, sarà un S2, S3, con antennino esterno. Ma riceve anche col gommino, se vado fuori ho visto. Quindi sono segnali che lasciano il tempo che trovano, perché non li guarda nessuno in realtà. Gianfra, stavo parlando con la 50 e non ho seguito, mi devi scusare. No, non c'ho problema, ho detto che si sentono sempre, no? Anche col portatile volendo, però non guardo il segnale perché è inutile guardarlo, perché attacca è tipo telefonino, capito? Io ho capito. Comunque, se vuoi ascoltare delle cose del genere, non è un problema, ecco. No, adesso la spengo però perché c'ha il beep, lo senti ogni tanto, sì, ne c'ha fuga. Veramente c'è questo e quindi è un po' così. Io ho capito. Marco ce ne ha due di quelle, però non lo so se... Io so che sono DMR, però bisogna vedere che tipo di DMR sono. No, assolutamente non sono DMR, quelle sono DPMR, infatti c'è sempre confusione, che è un altro standard che funziona a slot singolo e quindi non va bene, questo è il DMR vero e proprio, quindi è lo stesso che ci sono i radioamatori, il vigile del fuoco, polizia locale in molte parti d'Italia, perché la scelta è duplice, o tetra o DMR. Il DMR supporta bene anche il VHF, come ho detto prima, e quindi è più snello, capito, più efficace, più immediato. Il tetra è molto molto complesso e quindi richiede anche personale esterno per la cura degli apparati, programmazione, eccetera eccetera eccetera, capito? Però un DMR costa oramai ormai costa abbastanza poco, se per l'ascolto, se poi in trasmissione fanno cagare la maggior parte, te lo dico però per i provati, però come comunicazione di ascolto puoi fare ascolto tranquillamente, ecco, non è limitato, basta metterci il codice, diciamo, dei ripetitori e tu ascolti via ripetitore o via diretta, ci sono anche dei canali diretti e ti rendi conto subito dopo un po' di cosa stiamo parlando, ecco. E infatti, eppure me lo compro, bisogna che mi dici tu cosa devo comprare. 2-0 primo tempo, Olanda Repubblica Ceca. Via Mastro Giulio mi. Sono entrata in gamba tesa. Io entro in prepotenza, non lo posso permettere, Lestri. Va bene, stavo seguendo la partita, adesso sono nell'intervallo. Ciao Gianfranco, ciao Natalino. Non hai seguito il Giro di Francia, la seconda tappa, o Gianfranco? No, non lo sto seguendo, ho visto però quella, non so se era ieri, avanti ieri, lo stavo dicendo a Natalino, infatti, di quell'imbecille che si è messa col cartellone, l'hai visto quella parte, o Giulio? Tutto ho visto io ho visto tutto, la prima caduta e anche la seconda, nonché anche la tappa, per cui sì, e vabbè, quella donna, anche l'organizzazione, dai, è così all'acqua delle rose, perché non è possibile che si possa permettere alla gente senza transenne lì, è vergognoso, dai, non, per me è premesso che quella donna ha fatto una cavolata grande, si è fatto cadere 50, perché il corridore è anche oltre, tutti in una sola volta, punto. Poi quando erano vicino all'arrivo, molto vicino all'arrivo, un'altra caduta, ancora a Madarnare, minimo un'altra quarantina di corridori sono caduti di nuovo. Infatti lì poi c'è stato un po' un problema per diversi corridori. Vabbè, comunque, va bene così. Oggi la seconda tappa l'ha vinta Van de Poel si chiama, mi sembra, sì. Praticamente anche maglia gialla. Mentre ieri era quello Alan Filippe. Ok, Gianfra. Sì, rilancio Natalino. Però Giulio, c'è qualcosa, non so se sia da me, per carità, si può anche filtrare, però ti sento troppo sparato, troppo. La radio non è la tua, ecco, la tranquilla, orecchiabile, sembra quasi gracchiante, però ripeto una mia impressione, vediamo se Natalino l'ha buttato. Natalino. Sicuro che così va meglio. Siete sovrappopolati, riprendi Natalino. Ho detto che non deve toccare, lui si mette a toccare. Non ho toccato niente, io non ho toccato niente, ero solo appoggiato vicinissimo al microfono, anziché rimanere col braccio disteso, lungo, ero vicinissimo al microfono, perché mi sono appoggiato sul tavolino coi gomiti. Adesso stai uscendo bene, già sei tu adesso, poco fa era troppo forte. Confermo Giulio, fai bene ora. Perché io sono la potenza, non avete ancora capito che sono la potenza, come la città potenza, io sono così, non c'è niente da fare. Va bene, dai, vabbè, comunque, va bene così. Chi era l'altro? Un altro fortissimo, chi era, avanti. Gianni, tu eri. Oh, io non ho sentito nessuno. C'era un segnalone fortissimo che ha parlato, che ha detto sei stato, mi ha detto. No, ho capito, sei stato. Mi ha detto sei stato, mi ha detto, era un segnale fortissimo, vicino al 9:15, una cosa del genere. C'ha ragione. Sei saturo, poi ti lamenti che ti mettono a portante. Ah, ciao, stella Mastro Giulio, che sta andando benissimo, già saturo, dove saturo è molto. Adesso va bene, prima no. E pensare che sono senza processore, mi ho tolto il processore, per cui ieri ero col processore, oggi sono senza, e col martedì a 1:30, anzi nemmeno a 1:30, per cui solo che ero troppo vicino al microfono. Ciao Claudio. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltata. No, lasciamo stare dicendo, a me 9:15 è poi impossibile, ma 9:10 già ti arrivo, direi. Sì, 9:10 di fisso. 9:10 fisso, ottimo, ottimo. Bene, bene, bene, tra qualche giorno poi salirà ancora il segnale, beh, sto cercando di organizzarmi bene per mettere l'antenna sul tetto, la tolgo da lì che deve passare anche il trattore, da fastidio. Va bene, esce 9:10 abbondante, quasi 9:15. Va bene, beh, riprendete che rimango in ascolto. Meglio che ti alzi, perché sì, il livello correme, sono in radio, ti sento, buonasera. Oi, muscolo, lo so, oramai la torre è caduta, però dai, già, l'importante è ci sentiamo. Vabbè, ciao Giulio, ciao, riprenditela, sono ancora lì, si muove lento, dai, col mezzo. Il Sant'Eroma stia arrivando, però sì. Frattamone, dai, sto rientrando. Allora già non mi senti il livello correme, se arrivi 9 tu qua, vuol dire già mi senti bene anche a me. Ciao Tino, tu me l'hai detto poc'anzi, sei stato, tu eri il Dio. No, negativo Giulio, ho appena acceso. Ah ok, boh. No, perché non ho conosciuto la modulazione. Va bene, dai, funziona bene alla grande. Vai Natale. Quindi sono a livello QRM, Tino. No, vabbè, segnale non ne hai, però radio forte. No, ma 69 tu qua. Vabbè, io sono aiutato, non è che... Io non sono aiutato, sono al 430, 20 watt e 40 modulati. Cosa vuoi che dica, cra? Sarà lo smitter mio che è avaro, molto. Parecchio avaro. Vabbè, comunque c'è un ottimo segnale, a posto, ti arrivi bene. Avanti Natali, riprendi. Scusate, io sto cenando. Vi ascolto. Minchia, cenando, pezzo finito alle 5 da mangiare. E allora riprendo io, visto che nessuno riprende. E beh certo, lui deve rispettare i suoi orari, perché subito dopo dovrà fare quello che deve fare. Va bene, dai. Avanti Gioca. Sì, ciao Tino, buonasera, non so se mi sente perché io sono il più piccolo che c'è, quindi da 2 watt non esco, il 40 non so neanche cosa sono. Claudio, ci vuole chiedere una cosa, hai provato, ma da lì, otticamente ovviamente, non che lo vedi, ma pensi che sei diretto sull'imbara o c'è uso dei mezzapiedi? Guarda, lo eccito col portatile dentro casa, finalmente, eccito tutti i punti, tutti. E ti posso dire che Olbia da Sassari non lo sentivo in diretta, in HF, invece sento Olbia in HF anche in diretta, capito? E come ricezione per me non è cambiato niente. Avete perso chiaramente qualche segnale, ma Giulio ad esempio era 9:10 a Carbonazzi, con poca potenza, magari con un po' di potenza in più, 15-18 anche lui, 9:20, insomma, i segnali sono quelli, però non è che abbia perso molto, è come ricezione, ma anche come trasmissione, Alghero arrivo benissimo, sento benissimo Alghero, sento benissimo tutti. Franco addirittura mi arriva con lo stesso segnale che arrivava a Sassari, quindi Franco la sorso, perciò non penso insomma di essere sceso molto. No, perché c'era, puoi ricevere anche il digitale, quindi dall'imbara, che ho visto con piacere che poco fa lo stavo provando ed è in funzione, quindi puoi fare anche ascolto di lì se ti interessa, dato che c'è il portatile. Ti volevo dire, dimmi cosa la potresti fare per risolvere tutti i problemi e fare quello diciamo che sarebbe anche carino. Ti metti, cioè prendi quei tralicetti che ci sono a Porto Torres, ad esempio, che usano per le telecamere, quelli fini fini, no? Credo che siano triangolari, forse c'è anche qualcuno quadrato, che non so di cosa siano, forse se alluminio, se... ma li usano anche per mettere i fari nelle... quando fanno concerti, eccetera. Ti metti uno di quelli che è uno scherzo, buttarlo a terra quando ti pare piaccia senza fatica perché è leggero, ci butti su l'antenna col palo, con una specie di master te lo fai, e sei a cavallo, ne metti due e sei un signore, e volendo anche un dipolo, per esagerare. Forse c'è qualcuno che sta accordando, e adesso vediamo Gianfra, piano piano vediamo, deve mettere a posto tutto, adesso non ho voglia. Ne prendi Giulio? Ok qua. Vabbè, cos'è preso? Non ha preso niente praticamente. Hai preso qualche punto OS e basta, niente di particolare. La radio è sempre ultima, la bomba, per cui meglio di così. Non c'è problema. E poi se hai preso da questa parte magari hai guadagnato dall'altra parte. Verso il sud, là, sud della Sardegna. Sicuramente è così. Per cui, tutto sommato, è meglio dove sei adesso che dove eri prima. Almeno abbracci uno spazio molto più ampio, più lungo soprattutto, con maggiori segnali, eccetera, eccetera. Tanto qua arrivi alla grande, cos'è perso? Arrivare 9 più 18, arrivare 9 più 10, che cosa te ne frega? Va veramente bene. Però allo stesso tempo sono sicuro che hai guadagnato molto, ma molto veramente, lì verso la zona del Campidano soprattutto, eccetera, eccetera. Va bene così, non c'è problema. Avanti Tino, sì, avanti a Friuli per la Sardegna. Ok, collega del Friuli. Salutoni, buona serata. Giulio Dollaro dalla Sardegna, la città di Sassari, in compagnia di vari amici che uno per volta anche li mando avanti. Avanti Claudio per il Friuli, per l'amico del Friuli, che dopo ci sarà anche il suo numerativo. Avanti Claudio. Sì, buonasera Friuli, Claudio Sparghiero da Sassari, 2 chilometri in collina da Sassari, arrivi 5, 9 più 10, complimenti, veramente ottimo segnale, ottima radio, perfettamente bene. Mi dai il tuo nome per cortesia? Ascolto molto bene anch'io, sul 5-9, su un lievissimo QSB di casa, però arrivate veramente bene, era una di che ti ascoltavo qua mentre avevo il cappello là. Oh, va bene, usando una vetta lupo autocostruita a Mono Elementi, puntata a Sud Italia e Nord Europa, Sicilia per intendere, che è usata, farà un po'. Sì, QSL Filippo, molto bene. Molto bene, no? Io vado con una Mantova 1, prima serie, la radio è un PS430 Rackable, il microfono MC60 Rackable, dei watt sono 40 watt modulati. Ti passo Gianfranco per i saluti, vai Gianfranco. Sì, ciao Filippo, buonasera, ben ascoltato dal Friuli. Io non so se mi senti perché io sto uscendo con un po' meno di 2 watt, anche se l'antenna è una Game Master, quindi a te ti ascolto benissimo, senza alcun problema. Radio 5 è perfetta e segnato sfidante tra il 7 e l'8. Ti rilancio se mi hai ricevuto, ti auguro la buona serata. Riprendi Filippo. Sì, sono a circa 8 km da Sassari. Riprendi Giulio. Ok, riprendo io. Allora ti saluto di nuovo. Filippo, da me mi arrivi ultimamente bene, Santiago 8, con un pochino leggero di QSB, naturalmente la radio è perfetta, bomba, chiarissima, bella, pulita. Mi sembra che gli altri amici hanno abbandonato un po' la frequenza, scusate un attimo, chiamo a Tino, se c'è ancora, Natalino, vabbè, è in stand-by. Tino, ci sei ancora? No, Tino non riprende, riprendi pure Filippo, dai, siamo rimasti in 3, io, Gianfranco e Claudio, praticamente Giulio, io, Gianfranco e Claudio, avanti ancora Filippo. Ma anche perché il problema è che sono un po' di prima, è stata la Sì, questo è Filippo. Claudio Spalviero che ritorna, molto bene. Sì, arrivi, arrivi, non ci sono problemi. 5-9 con QSB, 5-9 P10, insomma il segnale tuo va e viene, ma comunque abbastanza comprensibile, abbastanza forte. Avanti Gianfranco per i saluti a Filippo. Sì, Filippo. Non, io ripeto, ti sento sempre bene, ma sono proprio in QRP, al minimo della potenza, quindi sono, ripeto, meno di un watt, di 2 watt, quindi è ovvio che il segnale sia quasi impercettibile. Se mi hai sentito ti rilancio il micro, ti auguro la buona serata e niente, ti rimetto il micro a te. Filippo. Sì, ti ho ascoltato, adesso la propagazione ha aiutato, dai complimenti, se vai con 1-2 watt, complimenti, arriva via 3 adesso, 3-4, grazie mille per il collegamento e un saluto qua, un abbraccio per te. Ok, riprendo io allora per salutarti. Ciao Filippo, grazie per il contatto, è stato un piacere, se dovesse capitare ancora una volta saremo ben lieti di riascoltarti. Bene, bene, sperando naturalmente che la corporazione ci aiuti sempre come in questo momento. Niente QRM, radio pulita, segnali ultimi. Ciao Filippo, Giulio Nonno dalla Sardegna, ci sta di Sassari che ti super saluta. E ti mando avanti Claudio per i saluti finali. Avanti Claudio. Sì, QSL, molto bene Filippo, in provincia di Pordenone, buona serata, buon tutto, Claudio da Sassari ti saluta e ti abbraccia. Buon fine domenica, buon fine settimana, avanti Gianfranco. Sì, ciao Filippo, alle prossime, grazie per il collegamento, buona serata. Riprendi Claudio, però mi sa che devi abbassare di un pizzichino perché sento i sottofondi, anche la gente che parla. Come lo termonazzi qua è off space, quindi è tutto aperto, no? Non mi posso chiudere. Ok, ma intanto vi lascio perché, ripeto, qua sono andati via, c'era gente a pranzo e sono andati via che erano le 6, perciò c'è ancora da mettere un po' a posto per iniziare la cena, ma penso che stanotte si ceni poco, visto tutto quello che abbiamo mangiato a pranzo, ho fatto una rostita di quelle mega galattiche. Quindi per il momento mi allontano, salutando nuovamente Filippo, salutando Giulio, salutando a te Gianfranco e ci sentiamo dopo. Ok, vai Giulio. Ok, riprendo io allora, ciao Claudio. Grazie anche a te per il contatto, ci sentiamo prossimamente, ok. Ciao ancora Filippo, se sei ancora all'ascolto. Giulio ti super saluto di nuovo. Avanti Gianfranco. Capa, ciao Filippo, buona serata anche a te, alle prossime. Riprendi Giulio. Ok, vediamo un po' se Natalino ha finito. Ma mi sa, Natalino, ti sei liberato dell'operazione che stavi svolgendo? Ehi, ho già accennato e tutto, ho finito adesso. Allora in questo momento stai sicuramente meglio di noi, dai. Vabbè, io lo so che tu hai degli orari specifici da rispettare, per cui hai fatto bene, dai. Vabbè, peccato che non hai potuto anche tu fare il collegamento con l'amico del Friuli, cioè Filippo. Vabbè, pazienza, sarà per un'altra volta. Avanti ancora, Natalia. E in effetti, se mangio troppo tardi, poi... Fra due ore mi devo misurare la glicemia e farmi quella per la notte. Se mangio troppo tardi poi tocca farmela tardi questa cosa qua. Sì, capisco che ci sono degli orari da rispettare, anzi è meglio che tu li rispetti, così sei più tranquillo e non devi stravolgere l'abitudine che devi seguire giornalmente. Avanti Gianfa. Sì, ma anch'io, guarda, sono come Natalino, a quest'ora di norma ceno, perché se ceno più tardi poi mi dà fastidio, perché io ho qualche problema di stomaco e quindi preferisco andare a letto, che oggi ho iniziato tranquillamente la digestione e quindi me ne posso stare tranquillo, perché sennò poi è triste la nottata. Quindi è così, non è solo Natalino, ma d'altronde io so che in continente addirittura fanno anche prima delle 7, qualcuno alle 6, perché loro tradizionalmente alle 7, 7, 8 vanno fuori. fuori, vanno fuori nelle piazze, nei bar, eccetera, anche lì indubbiamente mangiando qualcosa, ma sono snack, sai, i bar non è che siano dei ristoranti, fanno snack e così via. L'ho visto a Parma, l'ho visto a Bologna, loro ce l'hanno per abitudine, quindi ce l'hanno presto e poi c'è qualche cosa, ecco, qualche, vanno con gli amici, tutto lì. Riprendi Natalia. In effetti ce l'hanno sempre avuto di cenare presto, perché dopo devono uscire, capito? Vabbè, comunque è una buona abitudine anche quella, cenare presto, in modo che poi quando uno va a letto ha già digerito e per cui ha sicuramente un riposo migliore, perché uno è andare a letto a stomaco pieno e pesante, in altre parole, e un altro conto è andare invece a letto quando ormai la digestione è già quasi al termine, è diverso, si riposa meglio sicuramente. Poi ognuno ha le sue abitudini, chiaramente non ci sono problemi. Tu immagina che mi chiedo adesso, in questo momento Marco non c'è, ma in realtà io mi chiedo come fa Marco a mangiare così tardi.